faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta. Lo Zoo di 105. Attacchiamo, va.